conjugere ubu vale. Lua e nef def ken du vale. Pedofil ken du go vale. Wala khale yenye me kipaye. Peria di fagadata muse. Yabu gori jidi muse. Fagadata muse. Wala khale kele provoke. Peria di fagadata muse. Yabu gori jidi muse. Fagadata muse. Wala da feme hule muse. Yo kuna bai kuna bai kuna bai kuna bai. Yapu somoro mudombi di aji di aji. Tere amwe tigati. Loki loko de fati. Kula kudu nanyo bumanwe. Tinga fende. Halbi ranko yaru. Aure ranko yaru. Hamza bombe. Bope. Yo munulo oh, oh. Munulo de famsa bop. Lo wax ñu né nono mineur na ko sampa. Est-ce que né ko ñu ci réw bu falé? Lu way neex def ken du falé. Pédophile ken du ko falé. Wala xalé yi ñe metti payé. Père ya di fagata ta musé. Ya bu ko ñi di musé. Fagata ta musé. Wala khale ke le provoke. Feria di fagadaga muse. Yapu gone gidi muse. Fagadaga muse. Wala da feme hule muse. Khale yi ganyu nyeme legi. Chorin gi gana sere legi. Nyom le nyu ombat. Jara na le lune. Le ki shabo makiyaje. Yo moy tulo. Mamto gone du nyu lale. Moy tulo. Gori du nyu me nono. Moy tulo. Ki le wawe sama dome. Molegena mana yak moy tul mato gonedu ñu laale moy tul gori du ñu may nono moy tul ki lay wawe sama doome molegena mana yak est ce ne ko ñu ci rew bu faale lu way ne def ken du faale pero fil ken du ko faale wala xale ye ñeme ci paye. Feria di fagadaga muse, yapu gone gidi muse. Fagadaga muse, wala khale kele provoke. Feria di fagadaga muse, yapu gone gidi muse. Fagadaga muse, wala da feme.